Mix 24, musica e storia. Bentornati a Mix 24, musica e storia. Siamo nel 1991, io sono Alessandra Fiori, qui con me c'è sempre lui, Franco Schipani, ciao a tutti, buongiorno. Ciao Franchi. E allora, il 45 giri più ascoltato, più ballato e più cantato del 1991 è... E quella volta una domenica d'ottobre, già l'autunno ci moriva addosso, io fumavo sigarette amare, tu come uno specchio rotto riflettevi quell'immagine sbiadita del ricordo, del frammento di un brandello, del profumo di quell'angolo d'estate. Mi dicesti voglio vivere la vita come un alito di vento nell'aurora che inseguita dalla notte già racchiude le speranze di un domani tutto mio che mi appartenga, e come donna carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io dicevo sì, capisco, voi gli scampoli d'assenza, ma pensavo puttana. E questo è Rapput di Claudio Bisio e Rocco Tanica. Rocco Tanica, lo sapete, è il tastierista di Elio e le Storie Tese. Beh, grandissimo Elio e le Storie grande, Tese. Grande, grande. Difficilissima questa canzone comunque, sì. Difficilissima. Comunque Franco, il 1991 si apre male, perché il 17 gennaio del 91 alle 2.30 ora di Baghdad inizia la prima guerra del Golfo. Buonasera. Siamo collegati in diretta con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti perché sembra che siano cominciati gli scontri. Per ora non sappiamo assolutamente nulla, ci colleghiamo subito con Lugato. Lugato, ci senti? In collegamento telefonico con Baghdad, si sono sentiti gli inviati rimasti nella capitale irachena dire stiamo vedendo delle luci, poi si sono sentite esplosioni, poi si sono sentiti ancora esplosioni più forti, la CNN... Saddam Hussein, presidente iracheno, invade il Kuwait. È il 17 gennaio del 1991 e inizia un conflitto che contrappone l'Iraq a una coalizione composta da 35 paesi guidata dagli Stati Uniti di Bush sotto l'egida dell'ONU. La guerra, che durerà 6 settimane, sarà ricordata come la prima guerra in diretta televisiva. E a febbraio, dopo quasi un mese, il Papa pronuncia queste parole. La guerra... appare come germe di morte. Mai come in questi giorni l'uomo è stato chiamato a far prevalere la ragione sulle passioni. Mai come oggi i responsabili delle nazioni, servitori del bene comune, sono interpellati dalla propria coscienza. Da parte sua, questa sede apostolica ha fatto quanto era nelle sue possibilità. Insomma, i guerrafondai da una parte e poi il Santo Padre dall'altra. Giovanni Paolo II. Che bel discorso, eh? Senti come pieno. Molte volte torna a parlare contro la guerra. Ecco, invece, da un punto di vista musicale, dobbiamo tornare alla musica, il 1991 è stato proprio un anno schizofrenico. Perché dico schizofrenico? Perché? Beh, guardate chi c'è, spalla a spalla, nelle classifiche di quell'anno. Ti spacco la faccia! C'è l'antenna parabolica, mi sei simpatica. C'è il telefono portatile, ti sciroppi le tisane, mi baci, mi affaccio. Mea sei simpatica, ti spacco la faccia. Ti spacco la faccia del Gabibo insieme a Sadness Part 1 degli Enigma, Alessandra. Beh, non male, Franco. Pupazzi di gomma piuma che ti vogliono spaccare la faccia e poi le arie gregoriane. Hai ragione, un po' schizofrenico, non male. Ecco, però il Gabibo non aveva nessuna difficoltà a passare in radio e in televisione, invece gli Enigma qualche problema lo avevano, specialmente perché questo brano era addirittura blasfemo, addirittura perché faceva riferimento al Marchese de Sade, che descriveva particolari piaceri carnali. Il brano ebbe grandissimo successo, ovviamente, e io direi una cosa, restiamo in tema di sesso e religione. It's bigger than you, and you are not me. Losing My Religion degli Ram, che poi non vuol dire perdere la mia religione, è un'espressione che vuol dire anche perdere la pazienza. La ragione, la pazienza. Meravigliosa. E poi questo Freedom di George Michael. George Michael che cosa ha fatto? Dato che su MTV si cominciavano a vedere sempre belle ragazze a bordo piscina, che uscivano queste dalle macchine con queste loro lunghe gambe, ci ha detto, vabbè, sai che facciamo? Le mettiamo veramente tutte. E quindi si è proprio allargato, come dicono a Roma, Cindy Crawford, Rita Evangelisti, Naomi Campbell, che più ne ha più ne metta. Perché è l'esplosione delle ultra modelle. Ultra, meravigliose. Comunque, adesso ci siamo abituati, comunque nel 1991 non era così scontato, Alessandra. Ecco Franco, lo sai, il 7 marzo del 1991 assistiamo attoniti a un'altra scena che oggi siamo purtroppo invece abituati a vedere. Nel porto di Brindisi arrivano 27.000 migranti in fuga dalla crisi economica e dalla dittatura comunista in Albania, e l'Italia di colpo scopre di essere una terra promessa per migliaia di albanesi. Ci troviamo a bordo di una pilotina del porto. Sono le 2:10 e ci avviciniamo per la prima volta al mercantile Liria, che significa libertà. A bordo ci sono tantissimi profughi albanesi, sono circa 3.000. Inizia la distribuzione dei viveri e gente che ha sete, che ha fame. Vogliono andare in Italia. Prego, aiutini. Non siamo cani, Giorno dopo giorno navi mercantili sbarcano sulle coste italiane cariche di albanesi in fuga dal loro paese. E la sera dell'8 agosto del 91 nel porto di Bari fa il suo ingresso la nave Vlora, che trasportava 20.000 migranti partiti dall'Albania dopo un viaggio iniziato 2 giorni prima a Durazzo, a bordo di un mercantile malandato. E Gianni Amelio, col suo L'America, nel 95, quindi fra 4 anni, porterà al cinema proprio il dramma di quegli sbarchi. Beh, non è uno sbarco, è un esodo a questo punto, possiamo dirlo? Possiamo dirlo. Cioè, 20.000 tutti insieme sono delle cifre importanti. Io vorrei ritornare un attimo ai video, al discorso che abbiamo interrotto ti prima. Ti piacerebbe? Non facile. Il triplo salto mortale. Di Franco, eh? Comunque, che succede nei video? Succede che se non hai almeno 3 video promozionali da mettere su MTV e VH1, a quel punto non vai proprio da nessuna parte. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Mix 24, musica e storia. Su Mix 24, musica e storia. Siamo nel 1991. Franco Schipani, cosa stiamo ascoltando? Stiamo ascoltando Nightbush City Limits di Tina Turner, che è il paese dove Tina Turner ha abitato fino all'età di 16 anni. Nightbush, appunto, City Limits, la periferia. Comunque aveva già divorziato poi dal suo, quando ha scritto questo pezzo, quando ha interpretato questo pezzo, dal suo manesco marito Ike. Tina. Divorzio nel 76, addirittura. Ma lo ha mollato dopo l'ennesimo mal rovescio. Ma divorzio matrimoniale o artistico? No, divorzio subito matrimoniale, perché veramente uno calzava le mani sempre e volentieri. Artistico sì, anche se poi lei ha ripreso molte canzoni, perché lui, guarda, a parte tutto, dobbiamo dirlo, era un precursore, uno veramente, veramente, veramente bravo. Comunque, a proposito di divorzi. Di divorzi. Pensa che questo gruppo si stava sfasciando, stavano divorziando. E invece poi, fortunatamente, ci hanno ripensato. Yeah. Questo è The Fly degli U2, che è stato il primo singolo di lancio del nuovo album all'epoca degli U2, che si chiamava Acting Baby. Pensa che il testo, Alessandra, parla, l'ho spiegato lo stesso Bono, di una telefonata che il diavolo fa ad un bambino. Il diavolo telefona? Il diavolo al telefono. E comunque questo brano ha spiazzato i fans all'epoca, mi ricordo, perché c'erano queste sonorità incredibili, sempre distorte, che in qualche modo erano una vera e propria novità per loro. E in Italia, Franco, nel 1991 le mafie invece non mettono a segno qualcosa di nuovo, ma due colpi terribili. Perché il 9 agosto il giudice Antonio Scopelliti, 56 anni, viene ucciso in un agguato a pochi chilometri da Villa San Giovanni. Secondo alcuni pentiti di 'Ndrangheta, sarebbe stata la cupola di Cosa Nostra siciliana a chiedere alla 'Ndrangheta stessa di uccidere Scopelliti, che avrebbe rappresentato la pubblica accusa in Cassazione nel maxi processo a Cosa Nostra. Così nel 78 Scopelliti rispondeva a Maurizio Costanzo sulla popolarità e più in generale sul ruolo dei giudici. Il giudice non è mai popolare, soprattutto il pubblico ministero, che è quasi sempre impopolare in tutti i processi. Ora il giudice va incontro a queste critiche, a volte anche aspre, vivaci, a volte anche ingiuste, ma non può sacrificare il suo ministero, la sua milizia ormai, per una popolarità che non è un suo privilegio. Può essere popolare o non popolare, ma deve fare anzitutto il proprio dovere. Quindi la popolarità è un privilegio del quale il giudice non deve tener conto. Giudici, popolarità, star, vere e proprie star della magistratura. Ecco, d'ora in poi, a partire dagli anni 90 e poi con Tangentopoli, diventerà uno dei temi centrali e lo è ancora oggi. Comunque invece nel 1991 passano 20 giorni dalla uccisione di Scopelliti e il 29 agosto a Palermo viene assassinato dalla mafia l'imprenditore Libero Grassi, che qualche mese prima di essere ucciso aveva denunciato la sua situazione in televisione a Samarcanda, intervistato da Michele Santoro. Libero Grassi, imprenditore tessile, dico bene? E lei si è trovato pure lei faccia a faccia con queste richieste di tangenti? Sì, mi sono trovato, come un po' sanno tutti, più volte. Ho subito due ostruzioni, una rapina, oltre a intimidazioni varie. Allora, io a lei perché non vuole pagare questa tangente? Lei è pazzo, non ho capito. Che, no, no, io non sono pazzo. Perché non vuole pagare? Perché io sono tutte le scelte. Tutti. Agela paga il 90% dei cittadini. Agela Ponte paga Carabinieri. Il 90% dei cittadini. Ebbene, io non mi piace non pagare. Perché la denunzio è una denuncia alla mia dignità di imprenditore. Libero Grassi, imprenditore tessile, stava combattendo una lotta personale contro le richieste di racket da parte della mafia e diventa infatti il simbolo della lotta contro il racket. E allora Alessandra, dal racket al rock, è dura, però proviamoci. Però ci sei riuscito, racket rock, non male, rock, Franco. Racket rock, che siamo pronti a tutto, quindi. Il 91, il rock and roll, da noi è molto vivace. Senza una donna. Senza una donna, Zucchero in compagnia di Paul Young, un cantante che ho sempre, sempre, sempre amato. Secondo me non è stato abbastanza valorizzato. Non è stato capito, dici? No, poco. Non poco. È stato capito almeno quanto doveva essere capito. Invece tutti hanno capito benissimo questo prossimo cantante, che poi non è un cantante, è uno che voleva fare il ballerino, immagina. E poi è diventato semplicemente un grandissimo artista a tutto tondo. La canzone del sole, è Fiorello. Guarda sì. Che il triplo salto mortale, perché i puri qua, ci sono poche persone che si possono permettere di cantare delle canzoni di Lucio Battisti e di non rischiare il linciaggio. Data però, la sua simpatia, la sua bravura, Fiorello ce l'ha fatta. Però Fiorello stesso è anche un attore e anche il fratello di Fiorello è un attore. giusto? Anche lui molto molto bravo. Si vede che il DNA è nella famiglia. Ecco, ma di dove sono loro? Loro sono siciliani, Franco. Ah, sono siciliani, brava. Però io sono preparata su Fiorello. Però non ti porto in Sicilia, Franco. Ti porto a Bari, in un teatro. Perché la sera del 27 ottobre del 1991 un incendio distrugge il teatro Petruzzelli di Bari, appunto. Quarto teatro italiano per dimensioni, inaugurato nel 1903, andò in cenere in un incendio doloso. L'ultima rappresentazione prima del disastro si tiene la sera del 26 ottobre del 91. La Norma di Bellini, direttore artistico e musicisti, ricordano quei momenti drammatici per loro e per l'intera città. Ancora oggi, nei miei incubi, torna spesso questa immagine del teatro scoperchiato e della gente che è lì intorno con i vigili del fuoco, insomma, mi sembra ancora oggi un incubo. E vidi questo cratere spaventoso, infernale, persi conoscenza e fui soccorso, per cui ho un momento di buio assoluto. Si era spento un faro nel mondo teatrale e della cultura. Va bene, dalla Puglia... A dove? Dalla Puglia, prima dalla Sicilia alla Puglia, adesso dalla Puglia. Beh, saliamo un po' su e andiamo a Napoli. O scarafù, o scarafù. Ogni scarafù è bella mamma sua. Ho scoperto che Pasquale forse è nato a Cefalù. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Mix 24, musica e storia. Oh scarafù, ogni scarafù è bella mamma so. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Siamo nel 1991, caro Franco. Scarafone a chi? Scarafone, pensa che Scarafone è Pino Daniele, ovviamente. Una canzone ovviamente famosissima di Pino. E pensate che questo proverbio, cioè ogni scarafone è bella mamma sua. Soia. Mi ha corretto subito la migliaccia, cioè, mi raccomando l'accento quando parli esatto. Napoletano. Dice, tu puoi essere anche uno scarafaggio, comunque mamma scarafaggio, pensa che tu sei sempre comunque bello. Comunque, ripeto, è un proverbio esistente in praticamente tutte le lingue, molto semplice, molto immediato. Dunque, perché ma lo grazie. Scarafone è l'animale brutto proprio per antonomasia. Per eccellenza. Anche se ma io ti ringrazio perché me l'hai spiegato. È sempre bello. Molto, molto chiaramente. Purtroppo però ci sono delle cose che rimangono tragiche e brutte da qualunque angolazione le si guardi. E alle 22 circa del 10 aprile del 91 il traghetto Moby Prince entra in collisione con la petroliera Agip Abruzzo. 300 metri di lunghezza, 5 piani di altezza. Dopo quello del Petruzzelli, quindi, un altro incendio provoca una tragedia. Sono 140 i morti. Un solo superstite si chiama Alessio Bertrand, un mozzo al suo primo giorno di navigazione. Lei era sopra, cosa è successo? Allora, io stavo nella saletta dove ogni sera andavamo a vedere la televisione. All'improvviso ho sentito un rumore. Sentito un rumore e siamo scappati tutti. Scappavamo da una parte, dall'altra. E c'era sempre fumo e fuoco e allora non si sapeva dove si doveva andare. A mano non si poteva buttare perché era tutto circondato dal fuoco, perché c'era il petrolio a terra. Così abbiamo resistito un quarto d'ora, 20 minuti, i miei amici, poi i miei amici non ce l'hanno fatto più. Ho provato a fare pure un'espressione bocca a bocca, ma erano morti. E poi il fuoco arrivava verso di me, io ero rimasto da su. Poi mi sono preso e mi sono aggrappato alla passeggiata. E sono stato là 2 ore. Poi è arrivata la finanza. Ha detto buttati in mano e mi sono buttato in mano. Nebbia, errore umano, problemi tecnici, traffico di armi, navi militari americane in rada. Sono tutte le cause tirate in ballo per quello che ancora oggi, malgrado la recente commissione parlamentare d'inchiesta, resta un caso senza verità, oltre a essere uno dei più grandi disastri della marina mercantile italiana. È certamente un giallo della storia. Ecco Franco, ma invece a Sanremo nel 1991 c'è qualche giallo? A proposito di gialli, dunque il giallo c'è perché dopo lo scoop dell'anno precedente di Striscia, che aveva comunicato, pensa, i vincitori prima della serata finale, Allora l'organizzazione di Adriana Ragazzini corre ai ripari. E che cosa fa? Si affida alla Doxa, che è una giuria demoscopica. Quindi la manifestazione torna al teatro Ariston e vince questa canzone. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei scoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi sai, mi manchi sai. Se stiamo insieme, Riccardo Cocciante, un brano scritto con Mogol, ed è un periodo d'oro della discografia italiana, quando per ogni disco si vendevano 250, 300, 400 mila copie, numeri che adesso sfortunatamente non esistono più, cara Alessandra. Franco, 1991, se stanno insieme ci sarà un perché, vale anche in politica, perché nel 1991 si insedia, ascolta, il 7° governo presidenziale presieduto da Giulio Andreotti, un altro pentapartito DC, PSI, PSD, PRI e Partito Liberale Italiano. Invece a Rimini si apre il 20° e ultimo congresso del Partito Comunista, che sancisce la costituzione del Partito Democratico della Sinistra. Il 3 febbraio, al termine del congresso, Achille Occhetto annuncia ufficialmente la trasformazione del Partito Comunista Italiano in PDS. E si chiude così il processo di nascita, appunto, del Partito Democratico della Sinistra, iniziato, ne abbiamo parlato, negli anni precedenti. Mentre sul fronte opposto Gianfranco Fini viene riconfermato alla segreteria nazionale del Movimento Sociale Italiano e resterà segretario nazionale fino allo scioglimento dell'MSI, che avverrà, e noi ne parleremo, nel 1995 con la svolta di Fiuggi. Ma ci torneremo, Franco. E siamo arrivati all'estate, anche oggi nel 1991. Ecco, quindi Festival Bar. Baciami stupido, baciami, lei me lo dice guardandomi, io sono qui, pallido inutile. Baciami stupido, baciami, lei me lo dice con quella bocca rossa perfetta. Baciami stupido, Biagio Antonacci, che così sale alla ribalta. Non è la sua migliore, diciamo. No, ho visto che facevi quella faccetta, ma c'è di meglio. Sentito di meglio. Ah, vabbè, però questo brano gli ha portato fortuna. Poi Biagio Antonacci è bravissimo, diciamocelo. E diciamo anche che dall'estero arriva un proprio e vero ciclone. Just Get Up and Dance, Africa Bambaataa, che è lo pseudonimo di Kevin Donovan, un newyorkese che è una delle persone leggendarie ormai dell'hip hop. Faceva prima il DJ. Tu sei molto hip hop e rapper. Io sono più funky che hip hop. Tu sei funky. Assolutamente, ecco perché adoro questo disco, Alessandra. Franco, il 1991 è un anno storico per la televisione, perché inizia l'era della pay TV. Pay, io pago. Nasce Telepiù, ma nasce anche un'altra realtà nel campo dell'informazione. A gennaio, lo abbiamo detto, con la guerra nel Golfo, l'informazione approda ufficialmente sulle reti Fininvest, anche se poi dobbiamo aspettare il 1992 per il primo vero e proprio telegiornale, che arriva su Canale 5 il prossimo anno. Intanto il 9 settembre del 91 sugli schermi di Italia 1 parte la prima puntata di un programma cult. Ma com'è bello qui, ma com'è grande qui, ci piace troppo, ma non è la Rai. Franco, non è la Rai. Non è la Rai. Non è la Rai. Ma è sempre Gianni Boncompagni. È sempre Gianni Boncompagni che lancia decine e decine di giovanissime ragazzine nel mondo dello spettacolo, e tra queste c'è anche lei. Su tutte Ambra Angiolini, che io adoro assolutamente. Grande attrice, poi. Grande attrice. Brava. Su Rai 3, invece, senti cosa succede? Minchia, ma per davvero c'è Sting? Me lo dovete far conoscere, quello è troppo figo! Me lo dovete presentare, che lo voglio parlare. Minchia, Sting! Scusi, ci sono legami tra la mafia e la politica? È difficile dirlo. Prima bisognerebbe riuscire a staccarle! Era un altro grande esordio, ed era quello di Luciana Littizzetto. E poi c'è Corrado Guzzanti col suo personaggio Rocco Smitherson, regista televisivo, perché naturalmente nel 91 inizia Avanzi e porta fortuna a parecchi comici come i Broncovitz, con tra gli altri Maurizio Crozza e Carla Signoris. Insomma, Franco, io ti ho portato tante novità nella musica, per esempio, vediamo una cosa che ti potrebbe piacere un pochino, vediamo così a caso l'America. In America, che succede? Beh, al numero uno delle classifiche americane troviamo un canadese. Beh, questo brano è rimasto al top per 16 settimane consecutive, un record. Think I do it for you. Questo è Bryan Adams, se non posso dimenticare quell'anno. Perché... Franco, nessuno lo può dimenticare. No, questo... non lo posso dimenticare in modo perché? Particolare perché no, ero dici, sposato perché... con la sua fidanzata storica. La terza. Katrin Nordstrom. Ma che poi fai, dici nome? Schipani. Beh, Katrin Nordstrom la conoscono tutti, su. Allora, un bel pezzo melodico, dicevi. Hai capito. Io dicevo che io invece non mi posso dimenticare questa canzone per il film che c'è. La colonna sonora di Robin Hood, il principe dei ladri, con un inguardabile Kevin Costner in calzamaglia verde, una memorabile Elizabeth Mastrantonio e Morgan Freeman, il principe dei ladri, Robin Hood, con Kevin Costner, te lo ricordi? Lui non era in calzamaglia, Bryan Adams, questo è sicuro, no, anche perché in quel periodo è stato definito un vero e proprio tesoro nazionale, è andato a finire addirittura nella Hall of Fame, cioè i personaggi più importanti della musica rock, non soltanto di musica rock, la Hall of Fame, cioè quando tu sei nella Hall of Fame sei qualcuno, se no non conti nulla. Comunque è un rockettaro questo Brianza, che ha avuto sempre brani di grandissimo successo. E comunque, a proposito di rock, io vorrei andare invece a sentire qualcosa di un po' più melodico. It's the voice of hope, it's the voice of peace, it's the voice of every man. Get us the heartbeat now, there is a sound that only echoes through the night. Get us the heartbeat. From a distance, Bette Midler e poi Where Does My Heart Beat Now di Celine Dion. Carissima Alessandra, quando Celine Dion ha iniziato a cantare, portavi i provini alle case discografiche, non è che tu dici, ah, ma guarda che bella voce, sì, cioè nessuno ci credeva in Celine Dion. L'unico che ci ha creduto, sì, dall'inizio era il marito. Vedi. Il quale ha detto, non soltanto ti amo, ma credo veramente in te. E quindi ha fatto il triplo salto mortale del muto sulla casa e ha prodotto il primo disco. E poi da lì, insomma, è stato tutto quanto in discesa, perché appena hanno sentito la sua voce, hanno detto, ma questa è veramente fantastica. E proprio Celine Dion, Franco, canta nella colonna sonora di un film pazzesco che esce quest'anno, che è La Bella e la Bestia, che invece nella versione italiana, la canzone della Bella e la Bestia, è cantata da Gino Paoli e Amanda Sandrelli. Ma restando sempre al cinema, perché quest'anno esce un film pazzesco ed è questo. Dottor Lecter, mi chiamo Clarice Starling. Posso parlare con lei? Jack Crawford ha mandato una recluta per me. Sì, sono una studentessa. Sono qui per imparare da lei. La tua è una risposta ingannevole, agente Starling. Jack Crawford deve avere davvero molto da fare se è costretto ad assumere degli studenti come aiutanti. È occupato a dare la caccia al nuovo arrivato a Buffalo Bill. Quanto è cattivo quel ragazzo. Molti assassini recidivi tengono dei trofei delle loro vittime. Io non lo facevo. No. No, lei se le mangiava le sue. Ecco, lei se le mangiava le sue. Jodie Foster e Anthony Hopkins. Il silenzio degli innocenti. Pensa, Franco, che è il terzo film in assoluto, dopo Accadde una notte e Qualcuno volò sul nido del cuculo, ad aver vinto i 5 premi Oscar più importanti. Miglior film, regia, attore, attrice e anche sceneggiatura. Ma non è finita, perché nel 1991... Oh, ti sento in onda. Sì, che cosa esce? Esce anche questo. Senti, Louise... Non torniamo indietro. Che vuoi dire, Thelma? Non fermiamoci. Non capisco. Coraggio. Franco, te lo ricordi il burrone, loro due? Ma io sono rimasto impietrito perché non me l'aspettavo proprio. Ma nessuno se l'aspettava. Ridley Scott e naturalmente Susan Sarandon e Gina Davis. E non solo, perché c'è anche un certo cowboy autostoppista che è diventato abbastanza famoso, sì, anche grazie a una scena. L'autostoppista più famoso nella storia della cinematografia mondiale. Ed è il signor Brad Pitt. Ecco. Va bene. Allora, Thelma e Louise non sono tornate indietro dal burrone con la loro macchina, no. Però ci torno. Io con la musica, perché è un mega mix di grande successo. Uno, eccolo. You gotta lay down and La regina Gloria Gaynor, Will Survive, Never Can Say Goodbye and Do It Yourself. Franco, non mi è bastato ancora cinema, sei pronto? Perché il 25 marzo a Los Angeles un'attrice italiana, una certa attrice italiana, riceve il premio Oscar alla carriera ed è lei, ed è Sofia Loren. Oh, finalmente, Franco, dopo tanto tonar piove. Dacci qualcosa di italiano, Franchi. Eccolo. Musica, musica, musica. Gente, gente, gente divertente, fatevi prendere dai per un momento. Liberati dallo stress e dal tormento, libera l'anima da tutti i limiti che condizionano te e i tuoi simili, lascia la carica scorrere. Franco Schipani, però confermi la tua ondata rap oggi. Ma sì, oggi no, sì. È l'anno, è sta succedendo, ragione, questo, non è ragione, che possiamo cambiare ragione le classifiche soltanto per far piacere a te, Alessandra. Sicuro? Non si può fare un pochino? Arriviamo a un compromesso, dici? Giovanotti, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Senti, però adesso noi siamo... No, aspetta, aspetta, devo dire subito una cosa, perché tutto il giorno che Rachele Caracciolo dice ricordati Franco che è scomparso Freddie Mercury dei Queen, ricordati che... Beh, in effetti. Ma si vede che questa cosa la Rachele la sturba, perché non lo so, tutti i giorni dice ricordati, mi raccomando ricordati, è veramente importante. Ho capito, dispiace a tutti perché veramente la perdita di un grandissimo artista, però per un artista che va... C'è anche un gruppo che arriva, perché Pietre Miliari, chi sono? Fermo qua, perché quest'anno chiudiamo con un brano del 1991 scelto da Antonella Migliaccio, perché è una di quelle Pietre Miliari che Antonella ha inaugurato la scorsa settimana con Trottolino Amoroso, Dudu, Dadada. Un po' diverso, sì, non è Trottolino. Antonella questa volta è diventata più rock e per noi ragazze degli anni 90 questa è l'apoteosi del rock. Sentiamo solo l'intro, poi mi dici quello che vuoi. E qui tutti quanti sono la batteria. Oggi ho sentito Chiappini che diceva: io sento quando sento questo brano devo accelerare anche se sono nel parcheggio. Guarda che è un po' pericoloso. Cioè, ma è me Nirvana mi ma fanno questo effetto. Ma l'hai fatto sicuro effetto. Però Chiappini? No, l'ho fatto con la voce da oggi, la voce sexy, quella di Chiappini quando dice: io anche nel parcheggio metto Nirvana e devo fare 120 all'ora. Ti ha fatto anche un po' calabrese. Comunque Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Vabbè, lo sapevamo che è del 91 ed è l'album fondamentale degli anni 90 e anche un po' della storia del rock. Franco, scusa, classificato alla posizione numero 17 da Rolling Stone Magazine nella lista dei 500 migliori album di sempre. Comunque arriverà l'anno prossimo, nel 92. Noi ne parleremo ancora, vero Franco? Giustissimo. Perché spodesterà il re Michael Jackson dalla vetta delle classifiche statunitensi. Quindi, Franco, ne parliamo ancora. Sì, certo. Vogliamo salutare? Ciao a tutti, ciao da Franco Schipani e da Alessandra Fiori. Ci vediamo nel 1992. Venerdì prossimo. Ciao.